Euroreportage. Agadez, la porta di sabbia dell'Europa, di Marina Berarducci e Giacomo Zandonini. L'orologio segna le 3 e la notte, a fine gennaio, è particolarmente fredda. Decine di persone si accalcano attorno agli autobus in partenza mentre gli addetti della stazione chiamano le destinazioni. Gli affari della compagnia di trasporti Rimbo, che gestisce l'omonima stazione di Niamey, capitale del Niger, vanno a gonfie vele. Da qui sono passati molti dei 150.000 migranti che nel 2015 hanno attraversato il paese, secondo l'agenzia Frontex. Direzione Agadez, città del Niger alle porte del Sahara, e infine Algeria, Libia e per alcuni Italia. Cittadini di tutta l'Africa occidentale hanno usato i moderni bus della compagnia per attraversare paesi e frontiere. Un flusso che preoccupa l'Unione Europea, tanto che Federica Mogherini ha scelto il Niger per la prima visita in Africa subsahariana come alto rappresentante per la politica estera. Fermare la migrazione in un paese povero quanto vasto e corrotto, in cui il transito di persone è un business per tutti, è però un compito arduo. La stazione si rianima alle prime ore del giorno, quando i migranti, che dormono qui per settimane in attesa di proseguire il viaggio, si mettono in fila per la doccia. Scavalcando i materassini gettati per terra, incontriamo Madi, un ventenne dallo sguardo serio. Dal Gambia sono arrivato in Senegal e da lì ho preso un bus per Bamako, in Mali. Dopo 2 giorni sono ripartito per il Burkina Faso. Ad ogni posto di controllo devi pagare gli agenti. Arrivati al confine fra Burkina e Niger, ci hanno chiesto 3.000 franchi, ma io avevo finito i soldi e mi hanno rispedito indietro. Una donna gambiana era in viaggio con noi e è stata portata in una casa da 2 agenti. Le hanno fatto cose non belle. Questi sono i pericoli del viaggio, tutti vengono maltrattati. Dopo 3 settimane in Burkina, la mia famiglia ha pagato e mi hanno liberato. Ora sono qui da 2 settimane, dovrò chiamarli ancora perché i soldi sono finiti. In Gambia ero un insegnante. Ho iniziato nel 2014, ma mi pagavano 20 euro al mese. Con quei soldi non puoi nemmeno comprare un sacco di riso. Così ho deciso di provare il viaggio. So che non è facile. Puoi essere ucciso anche prima di arrivare al Mediterraneo. Ogni giorno, ad ogni ora. A pochi chilometri dalla Rimbo, attraversando bancarelle, strade di sabbia e discariche a cielo aperto, arriviamo nella sede della diocesi di Niamey, dove Mauro Armanino, sacerdote e antropologo in Niger dal 2011, assiste quotidianamente chi, come Madi, transita per il paese. Lasciarsi interrogare da questi volti che passano, che a volte ritornano e che a volte non ritornano più, rimasti insabbiati da qualche parte, come mi è stato mostrato da uno dei migranti di ritorno. Sono messi in sacchi bianchi perché il mare li ha inghiottiti, e lui tornava per mostrare la foto ai genitori di questi 3 al sud di Lampedusa, cercando di non permettere che queste storie personali uniche diventino statistiche, categorie, giudizi. Il Niger è una terra preziosa, difficile, sfidante. Cosa significa guardare l'Europa da qui? Quando la gente arriva o vorrebbe arrivare in questo grande supermercato che è l'Europa, non ci va più bene perché ci stupiamo se qualcheduno ha la presunzione di prenderci sul serio? Chi, per profitto o convinzione, prende sul serio il sogno europeo è Lamine. Lo incontriamo davanti a quello che qui chiamano ghetto o foyer, una baracca di lamiera in cui decine di persone dormono ammassate. Lamine è uno degli agenti della fittissima rete di trafficanti che ospita i migranti e li trasporta dopo Agadez, quando l'asfalto lascia posto alle piste del Sahara. Viaggiare è un'esperienza, un apprendimento. Prima che nascessi, i miei lontani antenati facevano questo viaggio e a quei tempi non c'erano trasporti. Oggi invece che abbiamo macchine, abbiamo aerei, ci dicono che non possiamo muoverci. Sai una cosa? Non lo capisco proprio. Qui è dove faccio dormire i clienti. Se sono troppi, alcuni dormono fuori per terra. C'è chi parte subito, mentre se qualcuno rimane per più di 3 giorni, significa che i suoi soldi non sono ancora arrivati. Dormiamo qua, ci rilassiamo e quando uno riceve i soldi, me li dà, vado in stazione e gli prendo il biglietto per Agadez. Proprio ad Agadez, all'ombra dell'antica torre della moschea, patrimonio dell'UNESCO, si concentrano i futuri progetti dell'Unione Europea. Mentre nei ghetti, ai bordi della città, migliaia di persone aspettano per giorni, settimane o mesi di rimettersi in viaggio per raggiungere l'altra sponda del deserto. Chi, senza soldi e stanco degli abusi, decide di tornare indietro, può contare sull'aiuto di OIM, l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, che nella città gestisce uno dei 4 centri di transito presenti sul territorio nigerino. Capo missione è l'italiano Giuseppe Loprete. La rotta che parte appunto dal Senegal, Gambia, Mali, che attraversa tutto il Sahel, arriva in Niger. Quindi il Niger è attualmente il punto di transito maggiore per tutti i migranti che vogliono andare sia nel Nord Africa sia per l'Europa. Parliamo di 2.000-2.500 persone a settimana che sono a Niamey, che poi vanno a Agadez, che poi cercano in tutti i modi di organizzarsi per arrivare a quella che loro pensano sia la loro destinazione. Anni fa Agadez era una delle tappe principali della Parigi-Dakar. C'erano dei voli diretti dalla Francia, dalla Germania su Agadez senza neanche passare dalla capitale. Era una zona che viveva di turismo, adesso vive di immigrazione irregolare. Partiti come turisti nel 2007, cittadini europei sono tornati oggi a Agadez nella veste di funzionari della missione EUCAP Sahel Niger, espressione della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione Europea, a cui nel 2015 la Commissione Juncker ha affidato un nuovo compito, contrastare l'immigrazione irregolare. A parlarcene è Marco Montanari, consigliere politico di EUCAP. Il contrasto al fenomeno dell'immigrazione irregolare è un contrasto che richiede tempo, mezzi e volontà politica. Il nostro mandato dura fino a luglio del 2016, ma ci aspettiamo che gli Stati membri decidano di prolungarlo. Il tempo probabilmente ci sarà. I mezzi, grazie all'approvazione del fondo fiduciario per il Sahel, che ha una dotazione molto molto importante, probabilmente ci saranno. Sulla volontà politica naturalmente bisognerà lavorare. Questa volontà politica deve muoversi dai livelli più alti dello Stato fino ai livelli più bassi. Questa cosa deve poi andare a riguardare anche il singolo poliziotto che opera in mezzo al deserto, piuttosto che alle frontiere con il Burkina Faso. Proprio la corruzione delle autorità locali, che si arricchiscono grazie al transito di migranti, è uno degli ostacoli ai propositi dell'UE, che ha portato a 18 milioni i fondi annuali della missione. La ragione del raddoppio del nostro bilancio è appunto di creare questo ufficio permanente a Agadez. È un'attività estremamente difficile, pionieristica, che richiede molto tempo, molta pazienza e molti soldi, naturalmente. Nel momento in cui noi avremo costruito il nostro ufficio permanente a Agadez e nel momento in cui noi avremo mandato là il nostro personale e nel momento in cui questo personale avrà vissuto per un pochino di tempo là, io credo che noi potremo dimostrare che la presenza occidentale a Agadez è possibile, è sicura e ci auguriamo che questo possa spingere anche in futuro i turisti a tornare in questo bellissimo paese. Se il centro di EUCAP svolgerà dunque funzioni di monitoraggio e formazione delle forze di sicurezza, il centro polifunzionale previsto dall'agenda sulle migrazioni sarà quello di OIM, che in futuro non si rivolgerà solo a chi spontaneamente decide di rientrare in patria, ma offrirà formazione e assistenza anche a chi è bloccato nei ghetti. Per i migranti che ritornano da queste esperienze appunto in Libia, Algeria, forniamo già questo tipo di aiuto. Con i nuovi programmi finanziati dall'Unione Europea e da alcuni paesi europei, tra cui l'Italia e l'Inghilterra per esempio, noi vogliamo adesso concentrarci anche sui flussi che stanno andando verso l'Europa e quindi a questo punto già da Agadez iniziare questi discorsi e vedere quanti migranti sono disposti a non andare più in Libia perché è troppo pericoloso e accettare delle soluzioni alternative. Al momento della nostra visita, nell'enorme cortile circondato dai dormitori, 8 persone aspettano di rientrare nel paese di origine. Fra loro, Mamsek, 20enne senegalese dal volto scavato. Perché adesso sono andato da lì, da qui con i trafficanti in Algeria, dove i ghetti sono ancora più duri che in Nigeria. Devi pagare per ogni cosa, se non c'è posto fuori dormi così, sulla sabbia. Ogni mattina uscivo all'alba per cercare qualche lavoretto, l'unico modo per potermi pagare da mangiare. Quando ero lì un ragazzo senegalese che era chiuso dentro da 3 giorni senza cibo è morto. Lo hanno seppellito sul posto, in Algeria. Poi in Libia, come in tutto il viaggio, il problema vero sono i trafficanti. Ti ingannano di continuo e sono d'accordo con la polizia. Quando parti via mare dalla Libia, chiamano la polizia come è successo a me. Ci hanno bloccato in acqua, ci hanno portato in carcere. E per uscire ho dovuto ancora pagare dei soldi. Così ho deciso di tornare. Ti dicono che l'Italia è vicina, ma se non paghi puoi anche morire nelle prigioni libiche. Nonostante i rischi, ogni lunedì decine di pick-up lasciano Agadez per raggiungere in 3-4 giorni la Libia. Un flusso continuo che, visto dal Niger, sembra difficile da contenere o regolare. Almeno 57.000 dei migranti sbarcati in Italia lo scorso anno sono passati da qui. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.